In the next dialogue, Sarah and Lorenzo are in the car park, where they're supposed to meet Andrea. Ma prima ecco le parole nuove. Le ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Eccoti. Here you are. Eccoti. Ti presento. Let me introduce to you. Ti presento. Anni. Years. Anni. Posso chiamarla? Can I call you? Posso chiamarla? Sa? She, he knows. You know, formal. Sa. Già? Already. Già? Adesso ripassi il nuovo vocabolario e poi continui.